mai parlato di. Poi senza parole lasciasti tu il mio cuor così. Era quest'amore la felicità, ma perché mi fai tanto soffrire? Quando non ti vedo d'amor mi sembra di morire. Come una lucciola sei tu, brilli un istante nulla più, un paradiso fai sognar, passando tu sai dar una vision d'amore. Come una lucciola sei tu, e fugge non ritorna più, mentre s'inchiozza questo cuore. Quando vien la sera un'ombra mi sorride ancora, come una chimera trascino sempre il mio dolore. E ritorna ancora l'illusione d'amor, ma tu forse non m'ascolti più. Quando vien la sera il folle mio pensiero sei tu. Come una lucciola sei tu, brilli un istante nulla più, un paradiso fai sognar, passando tu sai dar una vision d'amore. Come una lucciola sei tu, la fugge non ritorna più, mentre s'inghiozza questo cuore. Lucciola sei tu, e fugge non ritorna più, mentre s'inchiozza questo cuore d'amore.